Continua il nostro viaggio dell'esplorazione del noir, che settimana scorsa abbiamo lasciato alle porte di un futuro distopico. Degrado ambientale, disastri ecologici, manipolazioni e mutazioni genetiche, strapotere delle multinazionali, criminalità organizzata, delinquenza dilagante, perdita dei punti di riferimento, sviluppo e utilizzo della matrice, attività hacker. Intelligenza artificiale, realtà virtuale, cyborg, androidi, clonazioni, questioni bioetiche. Indossate un paio di occhiali Mirror Shade per attraversare l'antologia cyberpunk. 11 autori contenuti in un'unica antologia, raccolti e indicati dai padri fondatori del movimento, William Gibson e Bruce Sterling. I racconti che compongono La notte che bruciammo Chrome, antologia di racconti di Gibson, sono preceduti da una prefazione di Bruce Sterling che dice: Se i poeti sono i legislatori non riconosciuti del mondo, gli scrittori di fantascienza sono i suoi buffoni di corte. Noi siamo pazzi saggi che fanno capriole, pronunciano profezie e si grattano in pubblico. Possiamo scherzare delle grandi idee perché le nostre sgargianti origini nelle riviste popolari ci fanno apparire innocui. Come scrittori di fantascienza abbiamo ogni ragione di godercela, abbiamo influenza senza responsabilità. Pochissimi si sentono in obbligo di prenderci sul serio e tuttavia le nostre idee penetrano nella cultura, si diffondono in maniera invisibile come una radiazione di fondo. Ma la triste verità è che la fantascienza negli ultimi tempi non ha divertito molto. Tutte le forme di cultura popolare attraversano momenti di crisi. Se la fantascienza dei tardi anni 70 era confusa e ripiegata su se stessa, non c'è da stupirsene. William Gibson è uno dei nostri migliori messaggeri di un futuro migliore. La sua breve carriera lo ha consacrato come uno dei più importanti scrittori degli anni Ottanta. Il suo stupefacente primo romanzo, Neuromante, ha vinto tantissimi premi nel 1985 e ha dimostrato la sua impareggiabile capacità di localizzare con precisione i punti nevralgici della società. L'effetto è stato quello di una scossa elettrica che ha contribuito a svegliare la fantascienza dal suo letargo dogmatico. Uscita dall'ibernazione, sta sbucando dalla sua caverna nella viva luce solare del moderno spirito dei tempi. E noi siamo magri, affamati e non dell'umore migliore. D'ora in poi le cose andranno in maniera diversa. L'antologia contiene tutte le opere brevi scritte da Gibson. È raro poter assistere allo sviluppo straordinariamente rapido di un grande scrittore. La strada che intendeva seguire era già visibile nella sua prima storia, Frammenti di una rosa olografica, 1977. Segni distintivi sono già presenti, una complessa sintesi di moderna cultura pop, alta tecnologia, tecniche letterarie d'avanguardia. Nei racconti successivi vi è una denuncia devastante della science fiction nella sua tradizione di miope tecnocrazia. Gibson è uno scrittore che conosce le sue radici e si sta preparando ad una radicale trasformazione. I suoi racconti pubblicati mostrano un livello di concentrazione e di immaginazione che hanno dato uno scossone all'intero genere fantascientifico. Storie densissime e barocche meritano di essere lette più volte per la loro cupa ed implacabile passione. Il trionfo di questi pezzi è nella capacità di evocare un futuro credibile, un compito difficilissimo che molti scrittori hanno evitato di affrontare. Questo fallimento intellettuale spiega lo spaventoso proliferare di storie fantastiche, ma di quelle in cui gli imperi galattici crollano molto opportunamente nella barbarie. Tutto questo sono sottogeneri del prodotto del desiderio impellente da parte degli scrittori di non occuparsi realisticamente del futuro. Ma nelle storie dell'agglomerato vediamo un futuro ricavato in maniera riconoscibile e dolorosa dalle moderne situazioni sociali. È multiforme, sofisticato e globale nella sua visione. Deriva da una nuova serie di punti di partenza, non dalle formule dei robot, astronavi e moderno miracolo atomico, ma dalla cibernetica, dalle biotecnologie, dalla rete informatica e da molto altro. Le tecniche estrapolative di Gibson sono quelle della fantascienza classica e pura, ma il modo in cui lo sviluppa è tipico della New Wave. Al posto dei soliti tecnici spassionati e degli eroi tutti di un pezzo, vi sono personaggi che rappresentano perdenti, truffatori, reietti, emarginati e schizofrenici. Il futuro lo vediamo dall'interno, così come è vissuto, non come arida speculazione. Gibson mette fine a quel tipo di archetipo. Nelle sue opere ci ritroviamo nelle strade e nei vicoli, nel regno della lotta per la sopravvivenza, dove l'alta tecnologia è un ronzio costante. Una sorta di esperimento impazzito di darwinismo sociale, inventato da un ricercatore annoiato che tiene perennemente premuto l'acceleratore. La scienza in questo mondo non è la fonte di bizzarre meraviglie, ma una forza onnipresente, diffusa e implacabile, un flusso di radiazioni mutagene che si diffondono fra la folla, un autobus globale stracarico che si inerpica a tutta velocità lungo una salita esponenziale. Queste storie ci dipingono un ritratto immediatamente riconoscibile del destino moderno. Le sue estrapolazioni mostrano con enorme nitidezza la massa nascosta dell'iceberg che è il mutamento sociale. L'iceberg scivola in questo momento con sinistra maestosità sulla superficie del tardo XX secolo, ma le sue proporzioni sono immense e oscure. Molti scrittori di fantascienza, posti di fronte a questo mostro in agguato, hanno alzato le mani al cielo e predetto il disastro. Anche se nessuno potrebbe accusare Gibson di ingenuo ottimismo, egli ha evitato questa scappatoia, e questo è un altro tratto distintivo della scuola emergente degli scrittori degli anni Ottanta, la noia dell'apocalisse. Gibson non perde tempo ad agitare il dito o a torcersi le mani, ma tiene gli occhi bene aperti e si rimbocca le maniche. Queste sono le sue virtù. Un altro segno ci mostra che è parte di un consenso crescente nella fantascienza. Prova ne è la facilità con cui collabora con altri scrittori. Con lui sentiamo parlare di un decennio che ha finalmente trovato la sua voce. Apre i corridoi stagnanti della letteratura fantascientifica per farvi entrare l'aria fresca delle nuove conoscenze. È la cultura degli anni Ottanta, con la sua bizzarra e crescente integrazione di moda e tecnologia. Ama i meandri più insoliti e immaginifici della letteratura ufficiale, un flusso incessante di rapporti scientifici, documenti governativi, pubblicità specializzata che plasma la nostra cultura senza che noi ce ne accorgiamo. La fantascienza ha vissuto di rendita per un lungo inverno. Gibson, insieme ad una schiera di nuovi scrittori dotati di inventive ambizioni, ha risvegliato il genere e lo ha lanciato alla ricerca di cibo fresco. E questo è un gran bene per noi tutti. Thank you. Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima? Ci si chiede nella Londra vittoriana del XIX secolo, ambientazione per eccellenza di un mondo anacronistico dove tecnologie e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore, dallo steampunk variante del cyberpunk. Non più un mondo distopico ambientato in un prossimo futuro, ma un mondo concentrato sulla tecnologia meccanica di un tempo passato, anacronistico. Il termine è apparso per la prima volta nella trilogia di Paul Di Filippo nel 1995. Compongono la trilogia i tre racconti, Vittoria, Feticcio rubato e Walt and Emily, dove si parla della sostituzione della regina Vittoria con un clone, dell'improbabile storia d'amore di Whitman e della Dixon e dell'invasione del Massachusetts da parte dei mostri di Lovecraft. Lo steampunk riprende nuovamente le tematiche del noir, del gotico e è particolarmente devoto ai mostri di Lovecraft che si muovono all'interno di congegni elettronici e meccanici di un tempo passato, congegni che vengono ripresi dal grand'angolo, da inquadrature sghembe, da lunghe carrellate che scandiscono in un tempo dilatato una sospensione onirica propria di Brasil, il film di Gilliam che ci conduce all'interno di uno spazio chiuso. Lo spazio chiuso è una figura che viene particolarmente indagata nel noir, scale elicoidali, pozzi senza fine, soffitti irraggiungibili, nicchie oscure, ballatoi sospesi, precipizi incolmabili e ancora, asimmetrie murarie e specularità ottiche, sono le vie labirintiche della mente umana, del servo noir, in cui si muovono i fantasmi delle idee. È l'immaginario carcerario di Piranesi, quello che attraversa inizialmente il romanticismo e il surrealismo, e poi ha finito col nutrire gli incubi del noir, che non si è più preoccupato di indagare le vie labirintiche del cervello nero, così come aveva descritto il Piranesi, ma che con Vidocq si preoccupa di stabilire che cosa rappresenti il carcere utilizzato dalla cultura dominante per neutralizzare ed emarginare tutti coloro che si pongono come elementi destabilizzanti per un sistema ed ordine costituito da una borghesia dominante. In questo senso il noir si differenzia dal poliziesco, che aveva visto nel carcere il trionfo di una giustizia mai messa in discussione. Far away. Un robot con sembianze umane era apparso per la prima volta al terzo numero della rivista Cannibale nel 1978 in Italia. Rank Xerox dal genio di tamburini e pazienza, un antieroe violento destinato a breve durata. Avrebbe comunque introdotto il tema del cyberpunk nel fumetto e anticipato di qualche anno l'antologia del cyberpunk presentata dalla rivista Decoder, creata alla fine degli anni Ottanta. La rivista doveva il nome alle teorie di William Burroughs, che omaggiava e citava. Il suo obiettivo era quello di creare nuovi spazi di controinformazione, di partecipare a dibattiti su antagonismo e informazione, hacking sociale, reti di computer, nuove tecnologie e realtà virtuali. Le sue copertine erano state molte volte disegnate dal professor Bat Tripp, che per amore al cyberpunk e a William Burroughs aveva pubblicato Il pasto nudo a fumetti e l'almanacco apocalittico. Il professor Bat Tripp amava Ballard, e di Ballard una delle opere che maggiormente si ricordano è Il condominio, una metafora della divisione della società in classi. Parla di un grattacielo condominio moderno all'interno del quale, a seconda dello strato sociale, vengono divisi i suoi abitanti, dai piani più bassi a quelli più alti. Al sicuro nella conchiglia del grattacielo, come passeggeri a bordo di un aereo con il pilota automatico, erano liberi di comportarsi in qualsiasi modo volessero, di esplorare le pieghe più oscure della propria personalità. Per molti versi il grattacielo era il perfetto modello di tutto ciò che la tecnologia aveva fatto per rendere possibile l'espressione di una psicopatologia autenticamente libera. Senza saperlo, si era costruito un gigantesco zoo verticale con centinaia di gabbie accatastate l'una sull'altra. E allora, per cogliere il senso di tutti i fatti avvenuti nei mesi precedenti, bastava capire che quelle creature brillanti ed esotiche avevano imparato ad aprire gli sportelli. Questa era la visione che proponeva Ballard alla fine degli anni 70 di quello che poi sarebbero stati le sue tematiche riprese anche nel mondo sommerso, quello della regressione dell'uomo che parte all'inizio secondo un'evoluzione, ma successivamente è chiamato a tornare e a regredire ad uno stato iniziale. Ora che tutto era tornato alla normalità, si rendeva conto con sorpresa che non c'era stato un inizio evidente, un momento al di là del quale le loro vite erano entrate in una dimensione chiaramente più sinistra. Things are going just as I planned. Life's so perfect, that's what it seems. Till the day she decided to leave. I used to love her, now I just hate her. I pray to death to come and take her away from me, away from me. Take her away. Frammenti di una rosa olografica. Quell'estate Parker faceva fatica a dormire. C'erano interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e gli spegnimenti improvvisi dell'induttore delta provocavano dolorosi e improvvisi ritorni alla coscienza. Per evitare l'inconveniente, usò dei cavi con morsetti e del nastro adesivo nero per collegare l'induttore ad una piastra ASP a batteria. La caduta di tensione nell'induttore faceva scattare il circuito di riproduzione della piastra. Aveva comprato una cassetta SP che iniziava mostrando il soggetto addormentato su una spiaggia tranquilla. Era stata registrata da uno yogi, giovane e biondo, con 10 decimi di vista ed una grande sensibilità per i colori. Il ragazzo era stato portato in aereo fino alle Barbados con il solo scopo di fargli fare un pisolino e fargli praticare i suoi esercizi mattutini sul lembo di spiaggia privata. La piastrina, nella custodia trasparente della cassetta, spiegava che lo yogi era in grado di passare volontariamente dal sonno alfa a quello delta, senza bisogno di un induttore. Parker, che da 2 anni non riusciva a dormire senza un induttore, si era chiesto se fosse possibile. Aveva potuto rivivere l'intera sequenza una volta sola, anche se ormai conosceva ogni sensazione dei primi 5 minuti. La parte più interessante gli sembrava un piccolo guaio di ripresa all'inizio dell'elaborato esercizio respiratorio. Un rapido sguardo lungo la spiaggia sbianca che svelava la figura di una guardia vicino alla barriera di rete metallica. Aveva una mitragliatrice nera a tracolla. Mentre Parker dormiva, in città mancò la corrente. La transizione da Delta a Delta SP fu come esplodere in un corpo non suo. La familiarità a tutti lo shock. Sentì la sabbia fresca sotto le spalle, i risvolti dei blue jeans sdrusciti che gli sbattevano contro le caviglie. Era nella brezza mattutina. Presto il ragazzo si sarebbe svegliato del tutto e avrebbe cominciato il suo Ardha Mahendra. O che cosa si era? Boh, Parker cercò nel buio la piastra SP con mani che appartenevano ad un altro. 3 del mattino. Ti stai facendo una tazza di caffè al buio, usando una torcia elettrica per versare acqua bollente. Il sogno registrato del mattino sta svanendo attraverso altri occhi. Il fumo nero di un mercantile cubano svanisce insieme all'orizzonte, naviga sullo schermo grigio della mente. 3 del mattino. Lasciati circondare dalle immagini schematiche della giornata precedente. Quello che hai detto, quello che ha detto lei mentre la guardavi fare le valigie e telefonare per il taxi, non lo ricordi. In qualunque modo le si rimescoli, formano lo stesso circuito stampato, i geroglifici che convergono su una componente centrale. Sei in piedi sotto la pioggia e gridi al tassista. La pioggia è acre e acida, simile al piscio. Il tassista ti ha dato dell'imbecille e hai dovuto pagare lo stesso doppio a tariffa. Lei aveva 3 valigie. Con il respiratore e gli occhiali, l'uomo assomigliava ad una formica, appedalato via nella pioggia, ma lei non si è voltata indietro. L'ultima cosa che hai visto di lei è stata una grossa formica che ti rivolgeva il pugno chiuso col medio sollevato. Parker aveva visto la sua prima unità ASP in una baraccopoli del Texas, un posto che si chiama Jadis Jungle. Era una grossa console rinchiusa in una plastica cromata. Una banconota da $10 infilata nella fissura dava l'illusione di 5 minuti di ginnastica in caduta libera su una stazione orbitale svizzera. Capriole di 20 metri con una modella di Vogue, roba entusiasmante per Jungle, dove era più semplice avere una pistola che un bagno caldo. Un anno dopo, quando era a New York con documenti false, 2 ditte all'avanguardia avevano messo in vendita nei maggiori supermercati le prime piastre portatili e nel tempo per Natale. I locali SP, porno fioriti brevemente in California, non si erano più ripresi dal colpo. Dopo un po' era sparita anche l'olografia e le cupole di Fuller, grandi quanto un isolato, che erano stati templi olografici durante l'infanzia di Parker, erano state trasformate in supermercati o locali polverosi di videogames, dove si potevano ancora trovare le vecchie console, sotto neon sbiaditi che pulsavano percezioni sensoriali apparenti, offuscati dal fumo azzurrino delle sigarette. Adesso Parker ha 30 anni, scrive sceneggiature per le trasmissioni SP e programma i movimenti degli occhi per le telecamere umane. Il semioscuramento prosegue. Nella camera da letto, Parker armeggia con i tasti sul frontale in alluminio del suo Sendai Sleep Master. La spia si accende per un attimo, poi si spegne. Posa la tazza di caffè sull'armadio che lei ha vuotato il giorno prima. Il cono di luce della torcia indaga fra gli scaffali vuoti, cercando qualche traccia di quell'amore e trovando il cinturino in pelle di un sandalo, una cassetta SP, una cartolina. La cartolina è un ologramma a riflessione di una rosa. Infila il cinturino nell'unità per l'eliminazione dei rifiuti sotto il lavandino della cucina. L'apparecchio parte pigramente, a causa del semioscuramento, cigola, ma alla fine inghiotte e digerisce tutto. Tenendola fra il pollice e l'indice, Parker abbassa la cartolina verso le mascelle rotanti, nascoste. L'unità emette un sibilo sottile, mentre i denti di acciaio lacerano la plastica laminata e la rosa viene ridotta in mille frammenti. Più tardi Parker è seduto a fumare sul letto disfatto. La cassetta della ragazza è nella piastra, pronta per essere rivista. Ci sono cassette di donne che lo disorientano, ma dubito che sia questa la ragione per cui ora esita ad azionare la macchina. Per circa un quarto degli utenti, ASP è impossibile adattarsi alla rappresentazione fisica soggettiva del sesso opposto. Nel corso degli anni, alcune stelle delle trasmissioni SP sono diventate sempre più androgine, nel tentativo di catturare anche questo segmento di pubblico. Ma i nastri di Angela non hanno mai messo a disagio prima. Ma se avesse registrato un amante? No, non può essere. È solo che la cassetta rappresenta una variabile del tutto sconosciuta. Quando Parker aveva compiuto 15 anni, i suoi genitori l'avevano vincolato con un contratto alla sussidiaria americana di un'industria plastica giapponese. A quell'epoca lui si era sentito fortunato. Il rapporto fra aspiranti assunti per il corso di formazione era enorme. Per 3 anni aveva vissuto con la sua squadra in un dormitorio. Poi, cantando l'inno aziendale ogni mattina e riuscendo una volta al mese a scavalcare la recinzione del campo per andare a ragazze o all'olodromo. Il contratto sarebbe scaduto al compimento dei 20 anni, dandogli così la possibilità di accedere allo status di dipendente effettivo. Una settimana prima del suo 19° compleanno, con 2 carte di credito rubate e un cambio di abito, aveva scavalcato la recinzione per l'ultima volta. Era arrivato in California 3 giorni prima del crollo del caotico regime dei nuovi secessionisti. A San Francisco le varie fazioni si combattevano per le strade. Qualcuno dei 4 diversi governi provvisori della città era riuscito a fare piazza pulita delle derrate alimentari in maniera talmente efficiente che per i cittadini non c'era più niente da mangiare. Parker aveva trascorso l'ultima notte della rivoluzione in un sobborgo devastato di Tucson a fare l'amore con una ragazza del New Jersey che gli spiegava in dettaglio il proprio oroscopo, fra scoppi leggeri di pianto che parevano non avere rapporto con quello che lui diceva o faceva. Diversi anni dopo si rese conto di non avere più alcuna idea del motivo per cui aveva rotto il contratto. I primi 3 quarti della cassetta sono stati cancellati. La fai avanzare e velocemente fra una nebbia di cariche elettrostatiche dove il gusto e l'odorato si confondono in un canale indistinto. L'ingresso audio è rumore bianco, il non suono di un oceano scuro. Ricevere per un lungo periodo il segnale di un nastro cancellato può indurre allucinazioni ipnotiche. Parker era rannicchiato fra i cespugli ai margini di una strada, nel Nuovo Messico, a mezzanotte. Osservava un carro armato in fiamme. Il fuoco lambiva la linea bianca discontinua che aveva seguito da Tucson. L'esplosione era stata visibile a 3 chilometri di distanza, un muro bianco di calore e luce che aveva trasformato i pallidi rami di un albero nudo in un negativo fotografico. Rami di carbonio contro un cielo al magnesio. Molti dei fuggitivi erano armati. Il Texas doveva le sue baraccopoli fumanti fra le calde piogge del Golfo all'incerta neutralità mantenuta di fronte al tentativo di secessione della costa occidentale. Le città erano costruite di compensato cartone, lastre di plastica che si gonfiavano al vento, carcasse di veicoli morti. Avevano nomi come Jump City e Sugar Ray, governi e amministrazioni dai confini incerti, treni che passavano continuamente e che mutavano costantemente seguendo il ritmo dell'economia illecita. Ben raramente le truppe federali e statali mandate a spazzare via le città fuori legge trovavano qualcosa, ma ad ogni spedizione c'era un certo numero di uomini che non faceva ritorno ai propri reparti. Alcuni avevano venduto le armi e bruciato le uniformi, altri si erano avvicinati troppo al contrabbando che erano stati mandati a stroncare. Dopo 3 mesi Parker aveva deciso di uscirne, ma l'unico modo per oltrepassare il cordone dei soldati era avere qualcosa da vendere. L'occasione era arrivata per puro caso. Un pomeriggio tardi, mentre percorreva la coltre di fumo nero che gravava su Jungle, provocata dai fuochi accesi per cucinare, inciampò e per poco non cadde sul cadavere di una donna nel letto arido di un ruscello. Le mosche si erano sollevate in una nuvola ronzante, poi si erano posate di nuovo, senza fare caso a lui. La donna aveva una giacca di pelle e di notte Parker aveva freddo. Aveva cercato un ramo spezzato nel letto del ruscello. Sulla schiena, appena sotto la scapola sinistra, c'era un buco rotondo, grande come una matita. La fodera della giacca un tempo era rossa, ma adesso era nera, rigida e lucida di sangue rappreso. Era andato a cercare nell'acqua con la giacca appesa all'estremità del bastone. Ma poi non se l'era levata. Nella tasca sinistra aveva trovato 30 grammi di cocaina avvolta in plastica chiusa con nastro trasparente. La tasca destra conteneva 15 fiale di megacillina D e un coltello a serramanico lungo 20 centimetri con l'impugnatura di osso. L'antibiotico valeva il doppio del suo peso in cocaina. Piantò il coltello fino all'impugnatura in un tronco marcio lasciato ai piedi del raccoglitore di legno di Jungle e vi appese la giacca, lasciandola alle mosche mentre lui se ne andava. Quella sera, in un bar con il soffitto di lamiera ondulata, in attesa di uno degli avvocati che procuravano il passaggio attraverso il cordone, aveva provato la sua prima macchina SP. Era grossa, tutta cromature e luci al neon, e il proprietario ne era molto orgoglioso. Aveva dato una mano anche lui ad assalire il camion. Se il caos degli anni 90 riflette un cambiamento radicale nei paradigmi della cultura visuale, la svolta definitiva rispetto alla tradizione di Gutenberg della società prolografica, cosa dobbiamo attenderci da questa nuova tecnologia che promette unicamente di codificare e ricostruire l'intero spettro della percezione sensoriale? Ma Robert e Pierre, Storia moderna dell'America, analisi generale, avanti a tutta velocità attraverso il non tempo ronzante del nastro cancellato, nel corpo di Angela, sole europeo, strade di una città sconosciuta, Atene, insegne in lettera greca e odore di polvere, guardi tutto attraverso i suoi occhi pensando che questa donna non ti ha ancora incontrato e che sei appena uscito dal Texas. Monumento grigio, cavalli di pietra, piccioni che volano intorno, e le interferenze si prendono il corpo dell'amore e lo cancellano. Ondate di rumore bianche si frangono su una spiaggia inesistente e il nastro finisce. Adesso la spia dell'induttore è acceso. Parker è steso al buio e ricorda i 1.000 frammenti della rosa olografa. Un ologramma ha una particolare caratteristica. Recuperato e illuminato, ciascun frammento rivelerà l'immagine intera della rosa. Mentre Parker scivola verso il sonno delta, vede se stesso nella rosa. Ogni frammento rivela un intero che non conoscerà mai. Carte di credito rubate, un sobborgo bruciato, le congiunzioni astrali di una sconosciuta, un carro armato che brucia sulla strada, un sacchetto di droga appiattito, un coltello affilato sul cemento. Sottile come il dolore, e pensa: siamo frammenti gli uni degli altri, ma è sempre stato così. Quell'istante di un viaggio in Europa, abbandonato nel mare grigio del nostro cancellato, è più vicino adesso, è più reale, ma è solo perché è stato con lei ad Atene. Lei l'aveva aiutato ad ottenere documenti, gli aveva trovato il primo impiego all'SP. Era quello la loro storia? No. La storia era il frontale nero dell'induttore Delta, l'armadio vuoto, il letto disfatto. La storia era il disgusto per il corpo perfetto in cui si svegliava se mancava la corrente, la rabbia per il guidatore di taxi a pedali, Lei, che non si era voltata a guardarlo attraverso la pioggia contaminata, ricordò che ogni frammento rivela la rosa da un diverso punto di vista, ma il sonno Delta lo sommerse prima che riuscisse a chiedersi cosa potesse significare.